Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In questa nuova settimana ritorna l'appuntamento consueto con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Parliamo oggi di un argomento caro a tutti, caro perché ci costa qualcosa e anche perché insomma ormai senza la televisione credo non riusciamo a stare. Sì Francesco, quindi torniamo a parlare di canone dopo averlo fatto per molto tempo. Insomma, abbiamo avuto parecchi disagi, diciamo parecchie situazioni da affrontare quest'anno proprio per le novità introdotte dal canone, quindi il canone RAI in bolletta. Dobbiamo dire che dopo insomma i primi mesi di disorientamento, insomma, è stata anche abbastanza assorbita la novità dagli utenti, quindi possiamo anche essere relativamente soddisfatti, anche perché, diciamolo, l'abbiamo detto anche l'altra volta parlando di tariffe, bene o male insomma il canone costa anche meno rispetto a prima, anche se chiaramente adesso sono chiamati a pagarlo praticamente tutti quelli che hanno un'utenza, mentre insomma sappiamo che prima l'evasione era molto elevata. Perché parliamo un attimo, torniamo a parlare un po' di canone, perché chiaramente adesso è anno nuovo, vita nuova anche per il canone. Intanto la prima novità è che l'importo del canone che corrisponde in totale a 90 euro, quindi insomma è anche una cifra inferiore sicuramente a quelle precedenti, quando si pagava non in bolletta, sarà suddiviso in 10 rate mensili che verranno addebitate sulle fatture chiaramente dell'impresa elettrica come da novità dell'anno scorso. E quindi insomma tra gennaio e ottobre andremo a pagare questa decina di rate per andare a onorare l'intero canone. Qual è però il problema che si è subito rilevato, e devo dire che ho avuto varie richieste di informazioni in questi giorni e quindi immagino che sia una questione insomma da affrontare, ovvero se io ho fatto la disdetta lo scorso anno devo rifarla anche quest'anno? E questa è la prima domanda fondamentale. E allora qua l'Agenzia delle Entrate è molto chiara: chi ha fatto la disdetta tra il 31 luglio 2016 e il 31 gennaio 2017, quindi lo farà entro il 31 gennaio 2017, può stare tranquillo perché sarà esonerato dal pagamento del canone anche per l'intero anno, quindi per l'intero 2017. Sì. Quindi ribadiamo che se qualcuno tra il 31 luglio 2016 e oggi aveva già fatto la disdetta perché non possiede il televisore, può stare tranquillo, almeno relativamente tranquillo, perché poi si sa che le sorprese ci sono sempre, perché è esonerato anche per tutto il 2017. Chi invece fa la disdetta tra il 1 febbraio e il 30 giugno, perché la fa adesso praticamente, la farà dal 1 gennaio al 30 giugno, e sarà esonerato sì però dal canone per il secondo semestre 2017. Queste sono già informazioni importanti perché ecco, sicuramente fanno sì che chi appunto deve ancora fare per esempio la richiesta di esonero dal pagamento del canone perché non detiene la TV, sa che se lo fa entro il 31 gennaio 2017 sarà esonerato per tutto l'anno, dopo invece sarà esonerato solo per il secondo semestre. Ora però c'è un'altra questione che è un po' più complessa, ovvero se io invece attivo un'utenza dopo il 1 gennaio 2017, sì, chiaramente anche qua ci sono appunto delle particolarità. Allora, cerco di essere il più chiaro possibile, sperando di esserlo, perché è una questione un po' complessa. Allora, ripeto, l'utenza attivata dopo il 1 gennaio 2017, cosa succede? Se io invio la dichiarazione sostitutiva, quindi la richiesta di non pagamento del canone, entro il mese successivo all'attivazione, sono esonerato dal canone per l'intero anno, quindi sono tranquillo da questo punto di vista. Se invece questa mia dichiarazione, cioè la dichiarazione del non possesso della TV, la presento entro il 30 giugno 2017, ma oltre il mese successivo all'attivazione, allora in questo caso devo pagarmi tutto il canone per il primo semestre, naturalmente dal momento dell'attivazione della fornitura. Facciamo un esempio: se io appunto attivo un'utenza, quindi un'utenza elettrica, quindi mettiamo a febbraio, però mando la dichiarazione a marzo, In questo caso dovrò pagare comunque un mese di canone relativo al primo semestre, insomma, di quest'anno. Chi invece non rispetta l'invio della dichiarazione di non possesso della TV entro il primo mese successivo dall'attivazione della fornitura, cioè da quando comunque ho una nuova un'utenza elettrica, però presenta appunto il modello sostitutivo tra il 1 luglio e il 31 gennaio, in questo caso dovrà pagare il canone per intero in relazione proprio al mese sempre di stipula del contratto elettronico. Ecco, la questione è un po' complessa, però in realtà si può anche riassumere facilmente dicendo, invitando anzi tutte le persone che attivano una nuova utenza e che non posseggono il televisore o comunque insomma che possono non pagare il canone per varie motivazioni. E il consiglio chiaramente è quello di presentare la domanda, la dichiarazione sostitutiva, così come si chiama, entro il mese successivo l'attivazione dell'utenza. Certo, perché se entro no, 30 dopo giorni. Si rischia, entro 30 giorni, perché se no dopo si rischia di dover pagare più di quello che insomma si può pagare comunicandolo prima. Ecco, chiaramente adesso ne abbiamo un attimo parlato perché sono le novità del 2017. Già abbiamo appunto le prime richieste di aiuto in questo senso. Chiaramente invitiamo anche tutte le persone che abbiano dei dubbi e che vogliono anche riassumere un po' tutte le questioni riguardanti il canone, che chiaramente nei siti dell'Agenzia delle Entrate e della RAI stessa possono trovare insomma tutte le informazioni in merito e soprattutto possono trovare il modello per chiedere appunto il non pagamento del canone, quindi la famosa dichiarazione sostitutiva. Ripeto, dopo alcuni mesi, Francesco, di caos, la situazione si è un po' regolarizzata, pur chiaramente tra i vari casi di persone che si sono trovate a pagare anche per le seconde case, di persone che hanno pagato pur non avendo il televisore, però diciamo che in linea di massima la novità è stata assorbita in modo abbastanza dignitoso, insomma. Bene. Adesso chiaramente ci supponiamo che almeno nei primi mesi del 2017 qualche problema ci sarà, proprio perché comunque c'è la necessità di rinnovare appunto dichiarazioni sostitutive, o quindi noi ci aspettiamo comunque di avere un 2-3 mesi di richiesta d'aiuto da parte degli utenti, questo è poco ma sicuro. Ecco, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it per contattare l'Adico. Grazie a Gianluca Codognato, a tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.